Buonasera, 451 frammenti sonori, anzi per meglio dire buonanotte, visto che insomma sono le mezzanotte passate da poco. Max Macchia con una trasmissione che forse conoscerete per sbaglio, non so, per qualche errore strano della vostra esistenza, quindi vi sarete già imbattuti nella mia voce, magari nella voce di Eliseo Scarpa, compagno di trasmissione di tant'altro, l'innominabile eminenza grigia, che comunque vabbè mi tocca, come dire, quantomeno nominarla anche se non vuole, Lorenzo Albano, timido indefesso che comunque dobbiamo quantomeno citare, e 451, trasmissione che ogni mercoledì andrà in onda alle 24, città Fujiko. E un saluto e un sorriso, quello che vi mando chiaramente dai microfoni di città Fujiko, visto che se qualcuno appunto si è imbattuto, da qualche mese non ci sentivamo, esistiamo ancora, resistiamo, come dire, le cattive erbe d'altronde non sono dure a morire, siamo qua insomma di fatto. E stasera, riniziando una trasmissione che per chi non ci conosce tratta le musiche sperimentali così in maniera non ortodossa, perlomeno per quanto poi possa essere ortodossa trattare musiche sperimentali, però lontani dalle accademie, perdonateci insomma se ogni tanto andiamo magari verso quei lidi, magari per sbaglio, magari insomma per supponenza, cerchiamo sempre di essere punk come attitudine. Parlo con il plurale non perché Max Macchia si presenta con il plurale Maiestatis e parla col plurale Maiestatis, ma semplicemente perché 451 è un progetto collettivo nato qualche anno fa qua a Bologna, ovviamente in termini radiofonici, nato, che si occupa sì di quelle che possono essere considerate avanguardie e neoavanguardie, quindi partendo da molto molto lontano, i fil rouge è quello che interessa 451, frammenti sonori, fil rouge che unisce appunto le storiche avanguardie con sia le avanguardie degli anni 60 fino ad arrivare alle avanguardie artistico-politiche dei 70, e poi tutto quel percorso anche decisamente accidentato che sono state le musiche sperimentali dal metà degli anni 70 fino ad arrivare ai nostri giorni. Tuttora c'è un brulicare incredibile, meraviglioso anche di un underground mai domo, e per fortuna, perché sennò sarebbe veramente la fine. Di fatto insomma siamo qua e non finiti neanche noi, sperando insomma di appartenere a questo underground, a questo brulicare, a questo sabotare insomma la lontana, e con quindi le diversità rispetto a chiaramente percorsi storici già dati, insomma per certi versi le accademie sono state già portate dentro i musei, di fatto insomma anche vendute per molti aspetti, per altri no, perché poi sentirete sempre qua da 451 dei percorsi che sono tutt'altro che vendibili e venduti appunto nel corso degli anni. È un gioco, come dire, un po' al massacro tra chi vuole sperimentare e appunto si accinge a fare dei percorsi innovativi, diversi e magari anche fortemente antagonisti, e invece chi, come dire, cerca di portare alle casse poi questi discorsi, quindi con tutte le problematiche che questo comporta. Comunque vabbè, non voglio tediarvi, di fatto insomma avremo varie settimane avrò modo insomma di tediarvi in varie maniere. Questa sera 451 scoperchia decisamente violentemente anche il vaso di Pandora, e sì, andiamo, come dire, in un primo momento così come la mitica Pandora, a scoperchiare questo vaso, quindi portando distruzione, ma se poi ricordiamo bene, il vaso di Pandora la seconda volta che viene aperto riporta vita, quindi rinascita. In questo senso il vaso di Pandora ha questa duplice valenza, e questo che interessa questa sera appunto a questa notte, anzi a 451. Va bene, Max Macchia, quindi vi augura buon ascolto e andiamo a sto punto sul serio a scoperchiare il vaso di Pandora. Map appeared, plan of the whole. crashing into perfection like unimaginable, powerful and efficient weapons. Stars consume us with longing. Boulders reach for us like lovers. And we enter singing. We have gone nowhere. What was seen with a thousand eyes of us, at the brink of all, suns, glory of mists, cleared from the entryways across the valley floor, and the keepers who wait at the gates of the plan. Engraved on the ground where we walk is this warning. Everything is now destroyed. Do not seek to be anything other than this. You will be divested of every garment until none remain. What is born must become whole by annihilation. By the gates of the first time. By the glittering flight of arrows into all twilights of knowing. By the din of the waning light. What was spoken, what was heard, what was seen beyond the shift. Beh, mi piaceva proprio iniziare con Coil, ritenevo insomma una cosa sacrosanta per anche capire, farci capire rispetto a una sperimentazione che si vuole legata appunto a un modo di concepire l'avanguardia, sì, ma come termine assolutamente attitudinale, nel senso di cercare di spingere la macchina oltre, non cito a caso la macchina futurista, ma anche la macchina di buona parte delle avanguardie, delle neoavanguardie, con Coil la macchinizzazione e la macchinazione anche avviene già nei primi anni Ottanta, quando Christofferson e Balance formavano questo duo incredibilmente prolifico, non tanto in termini qualitativi e quantitativi, ma assolutamente in termini qualitativi. Musicalmente l'eccezionalità di Coil è data da passaggi dall'industrial, quelle forme di isolazionismo, di glitch music che hanno attraversato buona parte degli anni 90, e una nuova forma anche di elettronica potenzialmente anche cantautorale, se mi fate passare il termine. È chiaro che qua non si sta parlando di glitch pop o di cantautorato indie, seppur elettronico, ma i riferimenti, insomma, alla poesia musicale di Cohen, tanto amato da Coil, che proprio all'inizio della loro esperienza facevano appunto una cover, proprio ricordando il grande cantautore canadese, ricordando per certi versi un personaggio che ha attraversato buona parte non del cantautorato ma del cantato in termini più generali, come Pierpaolo Pasolini. Ricordiamo Ostia, un pezzo sempre del primo periodo altrettanto incredibile di Coil. Assolutamente un percorso che sul serio ha scoperchiato il vaso di Pandora, con la duplicità di creare musiche decisamente distruttive, come invece musiche che hanno fatto rinascere di fatto sperimentazioni e attitudini a elettronica e anche al trattamento analogico. Se ricordiamo le strumentazioni di Christofferson, strumenti inventati, qualcuno l'ha visto anche all'azione poco prima purtroppo che morisse qua a Bologna con il Trobengristol, perché poi di fatto Christofferson viene da quella storica formazione, storici sabotatori delle musiche, di tutte le musiche tout court veramente. E se con Coil appunto il vaso di Pandora così veniva scoperchiato violentemente, andando a trovare altre sperimentazioni che, volendo, seppur dall'altra parte dell'oceano, con Peter Gordon si muovevano su quei lidi decisamente e poco collocabili tra sperimentazioni no wave, forme di elettronica decostruita anche attraverso una forma di pop assurdo. Pensiamo alla Love Life Orchestra appunto di Peter Gordon, con pezzi incredibili. Purtroppo le ristampe anche insomma latitano un po', ne hanno fatta un annetto fa, su Love Life Orchestra, però insomma bisognerebbe ristampare ben di più, e anche della discografia tra l'altro di Peter Gordon, che era legato tra l'altro alla Lovely Music, etichetta newyorkese che della trasversalità, della decostruzione anche, perché poi non si trattava soltanto di un eclettismo postmoderno, ma si trattava proprio anche di attaccare il linguaggio pop in maniera anche frontale, attraversandolo proprio. E quindi Peter Gordon con Love Life Orchestra, ma anche con progetti da solo, ha cercato di creare dei linguaggi, e ci è riuscito anche per tanti versi, che depistassero. Altri depistatori che hanno, come dire, omaggiato sia una parte di Throbbing Gristle, quindi ritorniamo anche un po' sul scoperchiamento iniziale del vaso di Pandora di questa sera, quindi con Coil, perché hanno omaggiato Chris and Cosi, ex Throbbing Gristle anche loro, Factory Floor, depistatori con vari singoli mini che hanno fatto un po', hanno creato un'aspettativa veramente incredibile sull'album, album che poi mi viene anche un po' da sorridere, perché forse insomma trovo un'attitudine abbastanza simile qua a 451 frammenti sonori, ha disatteso le aspettative, lavorando forse più sul pop che sulla sperimentazione, ha fatto uscire appunto Factory Floor, questo lavoro, qualche mese fa, e non è andato esattamente bene, soprattutto per critici che stavano pompando veramente a più non posso Factory Floor, e di fatto insomma hanno creato questa strana situazione che poi a ben vedere insomma non si sa dove porterà, ma forse anche questo è interessante. Noi andiamo a trovare appunto con Peter Gordon, con questo pezzo che riprende forse nel percorso di Factory Floor, nel percorso di Peter Gordon, questa è un po' l'assurdità, scoperchia anche questo il vaso di Pandora, e attraverso una rielaborazione forse della musica cosmica, con tanto comunque di riferimento anche vintage a quello che erano i primi armamentari legati insomma ai primi oscillatori, quindi alle prime sperimentazioni elettroniche laboratoriali fatte da Raymond Scott ad esempio, tanto per citarne uno su tutti, ecco, potremmo anche dire così. Peter Gordon quindi con Factory Floor, ancora appunto per scoperchiare il vaso di Pandora, qua 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia. Thank you. Peter Gordon con Factory Floor ha un progetto sicuramente più riconosciuto e più riconoscibile, ovvero James Holden, uno dei dischi del 2013, e ci interessava appunto inserire James Holden perché personaggio assai interessante, partito dalla trance music sotto la protettiva di Sasha, quindi faccenda assai lontana poi da anche nei linguaggi sperimentali, oppure molto all'atere, insomma più musica diciamo legata al club, seppure alcune punte anche di interesse per quanto riguarda ricerche elettroniche le ha avute, forse il primissimo Sven Vatt, ma comunque senza perderci insomma dentro una faccenda più legata sicuramente alla funzionalità clubistica, senza ulteriormente togliere niente a questa, chiariamoci su questa faccenda. E James Holden da quindi una nascita legata alla trans dance house degli anni 90, va pian pianino ad affilare quelle che sono le armi di un ricercatore, comunque di uno spirito piuttosto inquieto, partendo dal 2001 con Fear of Silver Planet, ancora molto legato se vogliamo a delle dance decisamente dei primi anni zero, con gli anni si affila appunto questa arma legata a una ricerca, e in questo senso diventa anche piuttosto interessante il percorso di James Holden, perché in quest'ultimo 2013 Inheritors, appunto il disco stampato tra l'altro dalla Border Community, e quindi sempre è come dire dentro un hype che comunque non finisce, pensiamo insomma alla fama di Nathan Fake ad esempio per quanto riguarda Dance Oblique, e James Holden sviluppa un percorso che è assolutamente originale, forse con riferimenti a una spensieratezza musicale che non si va mai a perdere in superficialità appunto clubistiche legate soltanto a quello, ma cerca nelle musiche cosmiche, ad esempio nel pezzo che abbiamo sentito, in musicalità che sentiamo in sottofondo, più legate forse a una certa ambient o una post ambient, è un disco decisamente eclettico, addirittura con momenti legati al free, con tanto di ricordi assolo brextoniano, forse campionato dentro il disco Inheritors. È un percorso buono perché è accidentato, volutamente accidentato, dentro questa scoperta di nuovi mondi possibili e forse anche impossibili, in questo senso è veramente creativo il mondo di James Holden, e anche le prospettive sonore che aprono appunto un album come Inheritors. E se ci riferiamo a delle ricerche partite anche così in maniera lontana dalle sperimentazioni sonore, sicuramente uno dei padri di certe sonorità, passando anche per un certo Aphex, che sicuramente James Holden ricorda, si potrebbe anche tornare a una New York incredibilmente creativa, si può dire che comunque è tornata per tanti aspetti anche proprio a lambire quel furore creativo negli anni zero, con tutta la scena noise passata abbondantemente tra l'altro qua 451 frammenti sonori. Greg Leon, che iniziava con un rock, lui nativo di Miami, piuttosto generalista, niente di particolarmente sperimentale, se pensiamo insomma ai suoi riferimenti a Climax Blues Band, a formazioni abbastanza tipiche di un certo rock, così abbastanza tradizionale poi tutto sommato, e pensiamo invece a Greg Leon che parte per New York, incontra quella Manhattan del Lower East Side esplosiva, assolutamente deflagrante, che era quella del alla no wave, quella ad esempio di Peter Gordon che abbiamo appena assaggiato con Peter Gordon, con i Factory Floor, appunto dal suo Beachcoming mini del 2013, Greg Leon che è ispirato probabilmente da un'altra band favolosa come i Suicide e si accende di spirito elettronico, un assurdo musicale che va a pescare in un'assurdità appunto etnica fuori dal tempo, dislocando come soltanto forse può fare New York in termini proprio di sonorità, ma proprio di quello che si respira di climax, ecco, a questo punto ci vuole che la città emana da decenni e decenni, senza forse, anzi. E, New York che ispira un lavoro come Nomos, tra l'altro ristampato qualche mese fa, una delle ristampe importanti del 2013, probabilmente ancora misconosciuto, scusate, il lavoro di Craig Leon, che deve per tanti aspetti essere riscoperto proprio in figure di un'ecletticità assolutamente disturbante come quella di James Holden ascoltato prima. Ci andiamo a prendere da quello storico lavoro dei primi anni 80, Nomos, con questo strano senso etnico passato attraverso una centrifuga appunto di natura Suicide o di natura wave, no wave elettronica, andando a lambire territori veramente allucinati e allucinanti, e in questo caso insomma anche lui scoperchiando in maniera anche piuttosto decisa questo vaso di Pandora, 451, stasera come prima trasmissione qua a Fujiko, città vi dedica, ribaltando insomma città Fujiko, come appunto apertura non forse di stagione radiofonica, perché siamo in questo senso un po' in ritardo, ma sicuramente di stagione per quanto riguarda appunto il percorso di 451. Greg Leon.